lasciato giocare con le mie paure, calmerò le tue ansie, cercando il tuo pane, chiudendo la porta. We'll be right back.